Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Grandezza e progresso morale di una nazione si possono misurare dal modo in cui tratta gli animali. Che mi dice di Celentano, del Mahatma Gandhi? È uno che ne sapeva. No, ma che non potevamo iniziare in modo migliore, perché non si può fare distinzione dove c'è vita, ci sono emozioni, c'è dolore, c'è tristezza, c'è amore, c'è empatia. Lo sappiamo, insegni. Sai che abbiamo fatto anche questa puntata live in cui abbiamo parlato del modo in cui gli animali ci insegnano ad essere migliori genitori. Sì, esatto. Oggi parleremo anche di questa cosa qui. Cioè, questa frase di Gandhi è allacciata un po' a quello che parleremo. Oggi parleremo di pet therapy, parleremo del fatto che gli animali, ci sono anche delle sentenze da parte di alcuni tribunali, sono ritenuti persone non umane. Quindi state con noi, perché parleremo di un sacco di cose interessanti. Ci sarà anche una mail di una signora che ci ha scritto. Ci scrivete in tantissimi, grazie, questo ve lo dico a nome anche della Celentano. Appena possiamo rispondiamo a tutti, e appena c'è la possibilità cerchiamo di portare proprio in radio le domande che ci fate. Insomma, alcune cose non riusciamo a svilupparle da qui, come quando a volte ci chiedono del cane che ha dei problemi, che ha avuto un incidente piuttosto che abbaia troppo, come fare. Lì in quel caso vi dovete cercare un educatore che vi insegna a capire il linguaggio del vostro cane, del vostro animale. Ma andiamo al punto. Questa trasmissione nasce perché, chiedendo ai nostri amici a quattro zampe se sono felici, mettiamo in moto tutta una serie di tendenze, aspettative, di capacità cognitive nostre che ci fanno evolvere anche come persone. Quindi, oltre a regalarci una bella vita con i nostri animali e regalarla a loro, la regaliamo a noi stessi anche, perché evolviamo come persone. Per questo aveva ragione Gandhi, no? Che il progresso morale di una nazione si misura dal modo in cui tratta gli animali. Se tu gli animali li tratti male, lo puoi anche fare legalmente, però certamente non è che sei così progredito moralmente. Assolutamente no. E diciamo che di una personalità così ci possiamo fidare. Ora apriamo questa nostra rubrichetta filosofica che abbiamo cominciato l'altra volta con il libro che ti è piaciuto tanto, no? Io dovete sapere che ho portato a casa un libro pieno di foto e di frasi molto belle, e Rosita ha detto: beh, lo voglio, questo me lo prendo io, e me l'ha rubato praticamente. Il cane si chiama Le cose più importanti. Il cane si chiama, sì. Il libro, scusate, si chiama Le cose più importanti che il mio cane mi ha insegnato, è di Cinzia Copland, edizioni Tea. Cosa allora, ci dice oggi? La frase che abbiamo per adesso estrapolato è: la questione non è riuscire a prendersi la coda, ma quanto sia divertente darle la caccia. Favoloso. Sì. Cioè, la questione non è riuscire a prendersi la coda, ma quanto sia divertente darle la caccia. Cioè, della serie, io ho un obiettivo, no? Mm-hmm. Però arrivare a quell'obiettivo può essere anche più divertente. E quante volte ci siamo soffermati a pensare ad una cosa del genere? Beh, è un po' adesso, non vorrei fare un paragone, vediamo se ho capito, se no mi boccia, dottore. Dica. Allora, è un po' come il famoso sabato del villaggio, no? La famosa poesia, cioè tutto quello che sta prima di arrivare alla festa, la preparazione, l'entusiasmo, la voglia di prepararsi, di agghindarsi bene, di preparare il villaggio, di adornare il villaggio, che poi la festa in sé, no? È il viaggio, non è tanto la meta, ma il viaggio che conta. Molto simile, non posso dire, cioè per me non è esattamente la stessa cosa, perché quello è il bello dell'aspettativa, no? Quante e volte dici: vado a vedere quel film, poi magari il film è più deludente cioè ti sei divertito di più nel considerarlo prima. Mm-hmm. Farò finalmente quella cena con quelle persone, con quegli amici, e poi magari la cena è anche peggio. Dipende chi inviti a cena, dipende, perché se c'hai l'invitato sbagliato, la cena potrebbe diventare un incubo, sai. Mentre in questo caso è la meta e il viaggio coincidono. Cioè, per esempio, una bellissima frase del Buddha, che lui dice: non c'è una via per la felicità è la via. Quanto ne sa il dottor Vaira, eh? Ci abbiamo qui dietro il vetro il nostro regista con Emanuele, che ogni tanto ci guardano con la faccia punto interrogativo. Ma che hai detto? No, prima parlavamo di un scrittore, dimmi come si chiama, che non lo ricordo. Costantino Cavafis. Cavafis. O Cavafis. Ecco, lui nel 1911 ha scritto questa poesia che è nel cuore di molte persone, che si chiama Itaca, e che parla proprio di questa cosa. Quindi vi invitiamo a cercare su Google Itaca poesia, così che ve la leggete. È tratto proprio di questo del viaggio che questo poeta riassume, questa poesia, il viaggio di Ulisse. Cioè, mm-hmm. Immagina e spera che Itaca sia lontana e che le difficoltà siano tante, che i tesori siano tanti, che il viaggio duri il più possibile, perché più tempo tu ci metterai per arrivare alla meta, più cose imparerai, più la tua vita sarà significativa. Quindi bisogna augurarsi che i nostri esserini, animali meravigliosi che ci migliorano, che ci insegnano un sacco di cose, vivano il più possibile e serenamente, perché così abbiamo modo di fare questo viaggio lungo assieme a loro. No, non soltanto, ma volendo riportare la questione ai cani, no? Quando io mi ricordo molto bene quando facevo ricerca con Lucky, con il mio Lucky, no? Noi ci divertivamo a fare ricerca di persone, ricerca di oggetti, eccetera, eccetera. Io ero impressionato, e così come lui, tanti altri cani che ho visto lavorare in ricerca, di quanto a lui interessasse, per carità, l'oggetto alla fine che lui trovava, ma la parte più divertente era il durante, era mentre cercava. È lì che scodinzolava, si divertiva, lo vedevi proprio entusiasta. E questa è una cosa che ho riscontrato nella stragrande maggioranza dei cani che fanno ricerca olfattiva, che peraltro è un'attività che io invito i nostri ascoltatori a fare con il proprio cane, perché è un'attività che calma, è un'attività che attiva cooperazione con noi esseri umani, è un'attività che mette in moto, che stimola cognitivamente il cane. E quindi questa è una cosa importante, perché spesso i nostri cani a casa fanno poco. Li prepariamo noi da mangiare, non escono, vanno mai a fare la spesa, non vanno a lavorare. No, però vuol dire, la cosa che poi a me balza agli occhi è il fatto che non ci sono, dimmi se mi sbaglio anche qui, non ci sono motivazioni negative del perché non si deve prendere un cane, a meno che uno non è allergico al pelo di un animale o vivere vicino a un animale. Cioè, c'è sempre la possibilità di avere uno scambio che ti migliora. Sì, ma sai qual è, l'abbiamo detto forse un'altra volta, però sai qual è l'inizio più importante? Chiedersi cosa tu puoi fare per il cane. Per cui, a parte quando c'è un'allergia o quando uno ha una fobia, no, nei confronti del cane, che tra l'altro si può curare, no? Diciamo, certo, chi ci sta ascoltando, anzi, si può curare la fobia, chi cresce con i cani non sviluppa le allergie. Ne parleremo una volta, ma io mi ricordo molto bene una volta di aver lavorato con un bambino che era intollerante e fobico nei confronti degli animali, aveva una paura pazzesca, l'abbiamo, adesso vive con un Cavalier King Charles Spaniel. Che stavo dicendo, Celentano? Manca un minuto, dottor Vaira. Facciamo una cosa, lo diciamo subito dopo il traffico, però prima volevo ricordarvi la nostra mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it, continuate a scriverci, perché piano piano cercheremo di rispondervi e di portare voce alle vostre curiosità. Subito. Grazie, dopo il traffico. A tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Comunque guardare il mondo dalla prospettiva degli animali, vi assicuro, radioascoltatori, che il mondo lo vedete molto più bello. Diventa molto più magico e sacro. Molto più magico, sacro, interessante, profondo, tante cose. Allora, cosa stavamo dicendo prima? Ti è passato quel momento di Alzheimer? sì, esatto. Beh, insomma, allora, che cosa? No, stavi raccontando. No, perché si diceva quando fa bene adottare un cane, eccetera, eccetera. Però attenzione, visto che tu devi regalargli una bella vita, le condizioni per cui tu non puoi avere un cane sono, per esempio, la mancanza di tempo. Certo, no, e perché quindi, io dicevo che non ci sono controindicazioni ad avere un animale, quindi tu questo stai cercando, sì, di spiegare questo. Ci sono delle controindicazioni, nel senso che il rapporto deve essere beneficiale per entrambi, no? Tra l'altro, sai quanta gente dopo le conferenze mi ferma: ah, signor Vaira, guardi, veramente io già prima ero convinto, adesso ho ascoltato lei, non vedo l'ora di avere un giardino e finalmente prenderò il cane. E dico, lo mollo lì da solo. Sì, esatto, con la non sua lo faccia. Ma queste sono cose negative per il cane. Io invece prima cercavo di mettermi in un'altra prospettiva. Per noi non ci sono cose negative. Per i cani purtroppo noi facciamo tanti errori inconsapevolmente, in buona fede, non prendo minimamente in considerazione quelli che invece lo fanno volutamente, cioè sono proprio aridi volutamente. A quel punto non dovrebbero prendere un animale o prenderlo come gadget, sai, un po', no, tipo orecchino, tipo Paris Hilton, tipo questa gente qui. Noi, adesso, a proposito, no, dell'animale che ci fa bene, o meglio non l'animale, scopriremo tra poco la relazione che decidiamo di instaurare con l'animale, certo, ci può far bene, abbiamo in linea una persona molto interessante. Abbiamo in linea la dottoressa Antonia Tarantini, che si è laureata in scienze dell'educazione, ha un master in pet therapy e qualità della vita ed è presidente dell'associazione ASLAN. Antonia? Eccoci. Antonia, buongiorno. Tutte queste buongiorno. Cose fantastiche che tu fai, chissà quante cose interessanti ci puoi dire. Diciamo che i miei animali, i miei cani mi hanno portata in questo mondo. Sono riuscita a unire la mia preparazione universitaria e la mia grande passione per i cani. Posso chiederti quanti anni hai intanto? ho 31 anni. Ah no, beh, c'è una voce, sembra che ne hai 20. Difatti dicevo, per essere così giovane, com'è che ha già fatto tutta questa roba qui? Sembri giovanissimo. Beh, 31 anni mica male, tutta sta roba. Ah, comunque, sì, certo. Assolutamente, quindi complimenti. Allora, Antonia si occupa di pet therapy, prevalentemente. Certo. Anche se adesso ho appena finito il corso per educatori cinofili in Think Dog, quindi figurati, questa roba che fai sarà ancora... Quindi sarai preparatissima. Però, ecco, noi ci... Speriamo. Noi appunto questo. Allora, Aslan, per esempio, perché si chiama Aslan la tua associazione? Che vuol dire? Allora, Aslan è il leone delle cronache di Narnia di Lewis. Uh-huh. Ed era il nome che io ho dato al mio cane, il mio Golden Retriever Aslan. Purtroppo non c'è più Aslan, è morto a 9 mesi quando io ho iniziato a fare questo percorso, quando ho capito che volevo trasformare la mia passione in un lavoro. Quindi è stato un colpo durissimo. Durissimo, ci credo. Lui è morto davanti ai miei occhi, quindi è stato molto duro. E ho deciso di trasformare questo dolore grandissimo in qualcosa di più grande. Bello. E così gli ho dedicato l'associazione, quindi è una motivazione ancora più grande per fare bene questo lavoro. Ma questa associazione si occupa di preciso di? Allora, questa associazione si occupa di pet therapy e anche di educazione cinofila. Abbiamo educatori cinofili che seguono un particolare approccio, che è l'approccio cognitivo-relazionale, una visione che noi applichiamo anche all'educazione dei cani che vengono coinvolti nelle sedute di pet therapy. È molto importante l'educazione dei cani. Ci spieghi questa cosa qua, perché è una parola chiave, no? Molte volte si dice, ma che cani usate? Perché usare il cane? Io uso il cane. Invece tu dici, ci tieni a dire, no, questo il cane viene coinvolto. Ma che differenza c'è? Beh, allora, innanzitutto quando noi scegliamo delle parole, queste influenzano moltissimo la nostra mente e il modo con cui vediamo il mondo, con cui sentiamo il mondo. Quando si dice usare un animale, questo ha delle ricadute negative sul modo di lavorare, perché lo consideri uno strumento e quindi non gli riconosci moltissimo la sua vita emotiva, la sua vita mentale. Invece scegliere la parola coinvolgere cambia completamente la prospettiva di questo lavoro. Quando tu coinvolgi un animale, l'animale è un tuo pari, un collaboratore, certo, che ha delle emozioni innanzitutto, una soggettività, un particolare carattere, delle predisposizioni. Quindi è fondamentale partire da questo per arrivare ad avere un lavoro consapevole. Senti, e possiamo dire che quindi dobbiamo avere dei benefici anche nell'animale? Cosa vuol dire dobbiamo avere dei benefici? Cioè, uno dice, io uso l'animale perché siccome faccio pet therapy, ho, che ne so, un portatore di handicap, un anziano, un bambino particolare con cui devo lavorare. Quindi io mi aspetto, usando il cane, che questo individuo, che questo bambino stia meglio, no? Okay. Però la cosa che a me colpisce molto di questo approccio invece è che tu non è che usi l'animale per far star bene il bambino e basta. E dell'animale ma che se ne frega, intendi? Sì, cioè, okay, certo. Anche l'animale deve avere dei benefici dalla seduta. Dico bene? Esatto, sì, io lo davo un po' per scontato e in base a questo discorso qua mi viene in mente una cosa che a una conferenza di Angelo in Svizzera c'era questo pastore tedesco con una ragazza non vedente, bellissimo, e la cosa che mi colpì era che invece questo cane aveva uno sguardo tristissimo, quindi a volte io dico, chissà se per esempio quando ci sono questi cani che danno tanto a noi uomini, come i cani per i non vedenti, piuttosto che per quelli che soffrono di crisi epilettiche, così riescano a essere felici anche loro, ci possa essere uno scambio. Ecco, vedi, in questo caso diventa fondamentale. Io mi ricordo Antonia molto tempo fa mi aveva contattato proprio per questo. Diceva, vabbè, ma fare pet terapia non vorrei che diventasse soltanto qualcosa che è a favore degli esseri umani. A senso unico, certo. Cioè, se io poi devo usare il collare a strangolo, sottomettere il cane, tenerlo lì di forza, stressarlo e via dicendo, ma che pet terapia? Certo. Non è pet therapy, esatto, perché sono molto focalizzati. Quello che io ho visto in questo mondo e che poi mi ha portata a farmi delle domande, dire come voglio lavorare io, come vorrei spesso i miei cani, è proprio appunto l'emotività, la personalità del cane, dico che appunto la chiave di volta nella pet therapy è avere dei cani felici. E se non si hanno dei cani felici in seduta, non si può pensare al benessere della persona. Non ne beneficia nessuno alla fine, ovvio. Non ne beneficia nessuno. Per questo l'approccio cognitivo relazionale porta benessere anche all'animale, anche al cane. Senti, ultimamente tu fai anche, mi sembra, corsi per chi vuol lavorare in pet therapy, giusto? Sì. Stiamo facendo corsi per preparare i coadiutori del cane. Noi lavoriamo coadiutori si chiamano. Lavoriamo sulla base delle linee guida nazionali in materia di interventi assistiti con animali. E ci stiamo preparando sulla base sempre di questo approccio. Ascolta, però ci sono io sono rimasta molto colpita da un articolo. Spesso leggiamo, io e Angelo seguiamo lifekit.it, perché ci sono degli articoli veramente interessanti in generale, ma in questo caso andiamo a leggere soprattutto quelli che riguardano gli animali. C'è una lista di cani e gatti che sono le razze più adatte, per esempio, a stare con i bambini. C'è ovviamente anche nelle razze dei cani, ognuno ha una sua attitudine, quindi bisogna anche lì saper scegliere il cane adatto per fare un tipo di terapia piuttosto che un'altra, giusto? Certo, esatto. Ed è proprio lì la differenza, considerare le attitudini del cane. Ogni cane porta in seduta un contributo unico e ripetibile sulla base della propria personalità. Proprio per questo deve essere felice. Mm-hmm. Per esempio, il mio cane è felicissimo di lavorare con gli anziani, con i ritardati mentali, per esempio, ha più difficoltà. E quindi coinvolgiamo in seduta altre tipologie di cani, felice appunto di fare questo lavoro. Anche i meticci hanno un ruolo molto importante in questo, non è che deve per forza esserci un cane di razza. No, infatti è proprio questo che volevo dire. Allora, il cane di razza che cosa ti permette di fare? Parlo da educatore cinofilo, Antonio, poi tu aggiungi le cose più specifiche sulla pet therapy. Però i cani di razza ti danno una sorta di probabilità, no? di avere un certo carattere. Uh-huh. Però si tratta di probabilità, cioè non è detto che se tu adotti un golden retriever ti troverai per forza con un cane che si trova bene a fare pet therapy. Uh-huh. Quindi esattamente con un meticcio tu potresti trovarti per le mani un meticcio che è diventato un adulto e si trova così bene, è così gioioso nei rapporti sociali, ha una resilienza così alta, cioè la resilienza è il contrario della fragilità, cioè sopporta bene. Me l'hai fatto bene a dirlo, perché sai che me lo dice da 3 anni, da quanto stiamo assieme, io appena dice resilienza dico oddio cosa vuol dire? Capite che io ho dei problemi di senilità. Abbiamo i cani di Antonio che possono aiutarti. Ma che carino il dottor Vai. Amore Antonio, mio, mi dai è solo una battuta. Cane. Allora, no, quindi ci possono essere. Era cattiva questa? Sì. Ma me l'ha detta con amore, Antonia, per quello sopporto. Dovrò farmi perdonare. Allora, ecco. Invece è importante quello che dicevi tu, vedi, in barba alla senilità, che i medici possono tranquillamente essere coinvolti in pet therapy perché potrebbero ritrovarsi quelle caratteristiche individuali, perché poi devi andare a vedere quel cane com'è. Esatto, che magari che va bene. È come quando si dice non ti fidare di un uomo biondo con gli occhi azzurri perché sono tutti frivoli, no? Sì, esattamente. E poi vai a vedere che è proprio vero. Che è proprio vero. Non ti devi fidare perché no, scherzo, ci sono dei luoghi comuni da sfatare, ovviamente in generale, figurati con gli animali e con i cani. I meticci forse sono anche più, ma poi ognuno c'ha il proprio carattere, no? Anche, certo. Anche nei cani nella stessa cucciolata, quando vai a vedere i cuccioli, sia di razza che non di razza, vedi già piccini con ognuno ha un'attitudine, un carattere diverso, quindi voi fate leva su questo, giusto? Assolutamente, facciamo leva su questo. Io per esempio lavoro anche con il mio meticcio. Io ho un golden retriever di 2 anni che si chiama Noah e poi ho un meticcio Willy di 9 anni, ho scoperto dopo che era predisposto per lavorare con i bambini. Uh-huh. Lui sta bene quando lavora con i bambini e lui è un meticcio. E senti, ho letto su un articolo sulla Stampa, no? Da cui poi mi è venuta l'idea di chiamarti appunto per questa testimonianza, che dice che tu lavori con 3 cani. Allora, al momento sì, lavoriamo con 3 cani. Sono 2 golden retriever e un meticcio. 2 maschi di golden retriever? Sono un maschio e una femmina. Quindi al momento sono due maschi che sono Willy e Noah. Uh-huh. E poi Chloe, che è un altro un golden retriever. E stiamo preparando al momento 10 coadiutori del cane. e tra l'altro ci sono dei grandi talenti che secondo me potranno lavorare con noi. L'obiettivo è portare avanti i più progetti possibili per avere sempre più cani felici che lavorano in benissimo pezzetti. Senti, ma in quali strutture state lavorando adesso? Con chi? Bambini, anziani, disabili? Allora, adesso abbiamo un progetto molto grande che ci è stato finanziato da una fondazione della stampa che si chiama Specchio dei Tempi, mm-hmm. e siamo in diverse case di riposo torinesi. Oh, grandioso, finalmente soldi spesi bene. Davvero? Esatto, sì, sono case di riposo che economicamente non hanno la possibilità di portare questa coterapia e quindi, essendo un po' ai margini, sono state aiutate da questa fondazione che io ringrazio immensamente. Mm-hmm. Che ha avuto fiducia in noi. E poi lavoriamo anche con i bambini che hanno delle malattie rare. Uh-huh. Stiamo lavorando in collaborazione con un'associazione torinese che si chiama Non M'annoio. Uh-huh. Non M'annoio, non M'annoio. La canzone di Jovanotti. Esatto, deriva proprio da lì. Bellissima. La presidente ama molto Jovanotti. E Non M'annoio. E questo progetto è nato per caso, eravamo in un centro commerciale a promuovere la pet therapy ed è venuta una bambina con una malattia rara, si chiama sindrome di Pfeiffer, sostanzialmente è una malattia genetica che porta ad avere delle malformazioni craniofacciali e porta poi ad avere dei problemi agli arti e complicazioni neurologiche. E la mamma di questa bambina ci ha detto, si chiama Alice questa bambina, aveva molti problemi nella parte sinistra del corpo, muovere la parte sinistra del corpo. Non appena l'abbiamo avvicinata al cane, lei ha utilizzato la mano sinistra per accostare il cane, quindi il cane è un grande motivatore che stimola. Allora da lì è nato questo progetto, adesso stiamo raccogliendo dei fondi per portare avanti questo progetto meraviglioso che sosterrà non soltanto i bambini ma anche le famiglie dal punto di vista psicologico, perché ritrovarsi c'è bisogno, in fantastico. Queste condizioni non è assolutamente facile. Bene, fantastico. Guarda Antonio, ci hai detto delle cose bellissime, interessantissime, ti ringraziamo di aver fatto questa chiacchiera con noi. Grazie a voi. Ci sentiamo presto, aggiungiamo anche questa intervista alla nostra schiera di podcast. Vi ricordo anche una bellissima intervista ad Alberto Dal Negro che potete rintracciare sulla Pet Therapy nel podcast di Chiedimi se sono felice. Intanto salutiamo Antonia Tarantini e ci vediamo tra poco su Radio 24 con Rosita Celentano e Angelo Vaira. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Buongiorno, siamo sempre noi, non distraetevi. Allora, vi voglio leggere un virgolettato di una notizia che a me Angela ha fatto molto molto piacere, riguarda Giorgio Armani, che ha detto così: sono lieto di annunciare il concreto impegno del gruppo alla totale abolizione dell'uso di pellicce animali nelle proprie collezioni, ha spiegato lo stilista in un comunicato. Il progresso tecnologico raggiunto in questi anni ci permette di avere a disposizione valide alternative che rendono inutile il ricorso a pratiche crudeli nei confronti degli animali. Si tratta di un passo avanti importante che testimonia la particolare attenzione verso le delicate problematiche relative alla salvaguardia e al rispetto dell'ambiente e del mondo animale. Chapeau. Grandissimo. Chapeau nonostante tutto quello che io ho letto, perché io ho postato questa notizia miei social e mi è dispiaciuto che la maggior parte delle persone che mi segue abbia attaccato questa scelta di Armani. La maggior parte perché perché la base era l'invidia, no? L'invidia verso questa persona che ha creato un impero, ha fatto un sacco di soldi e tante persone sulla base di questo poi commentano negativamente. Persone che invece erano a favore di questa notizia si sono astenute dal commentare e hanno messo un sacco di mi piace. Sì, ma non solo, anche perché uno nella vita può a un certo punto capire che forse questa cosa non è più da fare e cambiare. Sì, cioè, certo. Solamente l'ignorante rimane sulle sue solite idee come col paraocchi. Aspetta, le obiezioni che ti facevano erano, te le ricordo. Sì, qualcuna. Erano legate soprattutto. Ma ormai lui ci ha fatto i soldi su questa cosa. È comodo adesso. Infatti. Che cosa rispondiamo a questo? Che certo, se uno dice voglio ripensare l'immagine di Armani, può anche pensarlo in questo modo, ma non è questa la cosa più importante. La cosa più importante invece è che quando uno stilista di così tanta levatura, probabilmente forse lo stilista più seguito al mondo, non so, decide di prendere questa strada, succede che innanzitutto nel suo gruppo si risparmia la vita di un sacco di animali, quindi per quegli animali, per ogni singolo animale, questa cosa fa la differenza ed è molto più importante quella differenza che star lì a battibeccare il cavillo, no, su quella... E poi il fatto che sia, che lui, altri prima di lui probabilmente l'hanno fatto, però il fatto che lo faccia lui adesso mette gli altri stilisti di fronte ad una scelta: continuare con l'uso di pelle e pellicce oppure astenersi e seguire questa strada. Che poi parliamo non solo di pellicce, perché già Silvana Armani, sua nipote che abbiamo intervistato un po' di mesi fa, sì, ci diceva, e per esempio un piumino invernale che tu hai preso, l'hai preso che è da free, cioè non c'è più madoca, è sintetico, quindi voglio dire è una scelta importantissima. E soprattutto a me non piace che la gente consideri chi ha fatto fortuna nella vita, chi ha guadagnato tanto, intanto non gli è mai stato regalato niente, gente che lavora, ma la differenza non la fa chi ha tanti soldi o chi ne ha meno, la differenza la fa se quei soldi sono fatti onestamente. Infatti, se uno fa i soldi onestamente merita di avere tutti i soldi che si è guadagnato fino all'ultimo centesimo, quindi non fatevi fregare da chi c'è i soldi e predica e da chi non ce li ha è più raccomandabile. Non è così, è l'onestà della persona, è l'integrità della persona che va valutata. Sono d'accordo su questo, la povertà non è un valore. No, assolutamente no, il valore è qualcos'altro. C'era un motivatore, mi ricordo, lui diceva, Anthony Robbins diceva, la regola numero uno per aiutare i poveri è non essere uno di loro. Ecco, appunto, perché sennò come fai ad aiutarli, a dargli qualcosa, a condividere? Bisogna condividere le cose e ognuno lo deve fare secondo la propria coscienza, nessuno deve giudicare, in questo senso non bisogna giudicare troppo facilmente. Quindi grazie Gruppo Armani, grazie Giorgio Armani di questa scelta. Sicuramente degli animali ti devono la vita da oggi in poi, quindi e questa è la cosa per noi più importante. Però perché allora perché è importante questa sentenza, no? Si sta, ne abbiamo parlato ultimamente, è appena uscito un libro edito da De Agostini per il quale ho avuto l'onore di poter scrivere la prefazione. Mm-hmm. Si chiama Come gli animali ci amano, come i cani ci amano, è scritto da Gregory Burns. Bellissimo il titolo. Perché è importante questo libro qua? Gregory Burns è un ricercatore e con il suo cane e un'altra dozzina di cani è riuscito a fare risonanza magnetica, ma in un modo totalmente etico, come si fa con i bambini. Cioè i proprietari di questi animali dovevano firmare un consenso informato, e se gli animali volevano uscire dalla stanza, no, di questo laboratorio, potevano farlo, e veniva insegnato loro attraverso il rinforzo positivo a rimanere fermi mentre questa macchina appunto sondava il loro cervello in movimento, mentre gli veniva prospettata l'immagine di una persona cara, una pallina, i loro giocattoli preferiti piuttosto che no, e hanno identificato un movimento a livello cerebrale che permette e consente di capire come gli animali amano, come sono strutturate le loro emozioni, come pensano, come amano, no? Queste cose qui. Tanto che sempre Gregory Burns, ricordo il libro della De Agostini, Come i cani ci amano, ha scritto un articolo per il The New York Times dal titolo, attenzione, anche i cani sono persone. Bellissimo. Cioè, New York Times, Gregory Burns, applauso. Scienziato di fama oramai internazionale grazie a queste ricerche. Fantastico. Lui dice, adesso non è più una questione filosofica, cioè noi abbiamo appurato attraverso una indagine scientifica che anche i cani, anche gli animali non umani sono persone. Mi fa venire in mente questa cosa qua, uh-huh, una sentenza fatta nel 2014 di questo famoso orangotango dal nome Sandra, non so se ti ricordi. Cioè Sandra è un orango che era in uno zoo di Buenos Aires, credo. In Argentina, sì. In Argentina, e un gruppo di avvocati di un gruppo ambientalista aveva fatto causa perché lei era detenuta in uno zoo. E il tribunale appunto di Buenos Aires ha dichiarato Sandra, quindi questo orangutan, una persona non umana. Fantastico. Non è la prima volta, perché poi c'è stato, mi sembra, anche in India. Fammi andare a vedere che una notizia qui sì, avanti. Sì, perché a volte il problema non è, come mi insegni tu, quando dicono ma figurati un animale non può pensare. Il problema è se un animale può soffrire, può provare gioia, può provare dolore, può provare paura, ma ci sono emozioni. Ormai sappiamo scientificamente che l'animale pensa, esatto. Quindi anche questa roba qua, cioè sia per il modo in cui è strutturato fra il suo l'altro. Cervello, sia perché sono state fatte indagini scientifiche, sia perché ci sono una serie di comportamenti da parte degli animali osservati da parte dei nostri etologi che ci fanno comprendere perfettamente, certo, come l'animale sia dotato di cognizione. Un'altra sentenza molto interessante è avvenuta nel 2013, quando l'India ha riconosciuto anche i delfini persone non umane, rendendo illegali gli spettacoli negli acquari. Nel 2007 le isole Baleari, provincia autonoma spagnola, hanno messo a punto la prima legislazione al mondo che riconosce i diritti legali di tutte le grandi scimmie, che non possono quindi essere imprigionate e torturate neppure per scopi scientifici. Quindi non è stata la prima questa di Sandra, e invece appartiene ad una tendenza oramai in cui in tutta coscienza, per mezzo, non so, di buona filosofia, per mezzo di una rinuncia all'antropocentrismo in cui tutto il mondo è messo tutto attorno all'essere umano, invece che si spinge verso il biocentrismo, cioè la vita al centro del mondo, quindi c'è un maggiore rispetto per suppongo ci sarà stato qualche contrario, no, a queste leggi. Ci sono stati, sì, ma ovviamente queste cose qua è la gente Cruciani, totalmente disinteressata. Ma lui non pensa. No, sto scherzando. No, i contrari ci sono stati anche degli articoli, no, in cui si dice: beh, allora le scimmie, visto che non contribuiscono alla nostra società, allora non possono godere anche diritti. Ma non è vero che non contribuiscono. Tanti animali, abbiamo sentito prima, certo, esperta di pettere, peraltro, che se contribuiscono. Certo. Ma il punto non è se uno contribuisce alla società o no, perché i bambini non contribuiscono, per esempio, oppure godono di diritti. No, ma è come mi dici, come abbiamo detto, credo, già altre volte in radio, ma ne parliamo spesso, se dal mondo, dalla terra, scomparisse il genere umano, il mondo continuerebbe ad andare avanti, anzi probabilmente anche senza problemi, con meno problemi. Ma se scomparisse un'altra specie animale, per esempio le api, gli insetti sì, qualunque, l'impollinazione scomparirebbe, quindi scomparirebbe, il mondo andrebbe a finire. Quindi questa è la prima cosa che ci dovrebbe far pensare. Non bisogna essere estremi in nessun senso, ognuno ha la sua, come si dice, il suo scopo, il suo senso in questa terra, in questa vita. Poi la questione che ne fanno questi avvocati e questi giudici non è una questione di convenienza, ma mi conviene oppure no, certo, che invece domina il pensiero dell'antropocentrista, no? Cioè, ma mi conviene stare, esatto, no, loro ne fanno una questione morale, etica, cioè se questi animali pensano, sono in grado di soffrire esattamente come noi, dobbiamo assicurare loro il fatto che stiano in buona salute. Ecco perché c'è Gandhi, adesso Peter ci recupera magari la frase di Gandhi, la riascoltiamo ancora una volta perché è importante, ce l'abbiamo? Sì. Lo ascoltiamo ancora una volta perché effettivamente ci fa capire quanto noi individui e noi come nazione possiamo misurare la nostra moralità. Grandezza e progresso morale di una nazione si possono misurare dal modo in cui tratta gli animali. Ok, cioè questa, esatto, questa è la cosa importante. Quindi, insomma, io sono molto contento di questa sentenza. Tra l'altro non sono gli unici, anche gli etologi cognitivi come Jane Goodall, Mark Beckhoff, che sono delle eminenze scientifiche a livello mondiale, loro dicono anche gli animali sono persone. Piatti e ciotole. Mara. Ciao Mara. Ciao, ciao a Mara tutti. Di Noia. Buongiorno. È qui con noi, che ci fornisce una ricetta che va bene per esseri umani e per cani contemporaneamente. Cosa ci hai preparato per oggi? Allora, per oggi vi propongo una ricetta che ho chiamato Tartufi Super Energy, uh-huh, per quei momenti in cui abbiamo bisogno di una ricarica dopo aver lavorato, sia noi che i nostri cani. Allora, vi occorrono 115 grammi di fagioli a zucchi secchi, 75 grammi di noci e 6 datteri, un cucchiaino di sciroppo d'acero, un quarto di cucchiaino di vaniglia in polvere, un pizzico di sale e 140 grammi di anacardi. È una ricetta da preparare con un po' di anticipo, come quando si usano i legumi secchi. Quindi mettiamoli a bagno per 4 ore, bisogna scolarli, cambiare l'acqua almeno 3 volte e cuocerli in acqua pulita per almeno un'ora. Scolarli e farli intiepidire. Questi fagioli vanno poi tritati con le noci, buono, i datteri, lo sciroppo d'acero, la vaniglia e il pizzico di sale, che esalterà il sapore dolce. Cioè tutto assieme, ottenere... si trita tutto assieme? Sì, sì, sì. Okay. Si trita tutto assieme fino a ottenere un composto liscio. Mm-hmm. Se risulta troppo asciutto potrete aggiungere un goccio d'acqua. Mm-hmm. È una ricetta semplicissima a parte la preparazione. Prelevare un cucchiaino di composto, formare delle palline, otterrete circa 12 bonbon. Mm-hmm. Bisogna rotolarli nel composto di aracardi e farli riposare per una mezz'oretta prima di saltarli addosso, praticamente. Come di inghiottirli, così come... Esatto. Ah, per quello si chiama... Per quello si chiamano, sì, tartufi, perché non c'è il tartufo in realtà, ma sono... Non c'è il tartufo, ma hanno un colore che ricorda il cioccolato. Ricordiamo che ai nostri cani il cioccolato è vietato. Certo. E abbiamo l'occasione per formare, per fare dei dolcetti che vanno bene per tutta la famiglia e che possono essere proprio una coccola adatta a tutti. Sono molto proteici perché comunque i fagioli, soprattutto, certo, gli azuchi, che sono questa varietà piccola e molto concentrata di sostanze nutritive, ci danno tutto quello di cui abbiamo bisogno, quindi senza problemi possiamo sperimentare in cucina delle ricette adatte a tutti. Bene, quello che volevo dire, che solamente essere, capire bene io, è che questo è un dolce, non è una pietà, un primo, un questo secondo. Questo è un, come possiamo chiamarlo, una coccola post lavoro. Una coccola post lavoro, perfetto, grazie Mara. È anche un dolce. Perfetto, grazie Mara. Grazie, noi ci Mara sentiamo domenica prossima. Grazie a voi. Ciao, ciao, buona domenica. Ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Chiedimi se sono felice, @radio24.it, mi raccomando, scriveteci che noi cercheremo, vi rispondiamo, vi coinvolgeremo anche in radio. Stavamo dicendo prima, che dottore, anche gli animali sono persone. Esatto. Anche gli animali, perché si fosse messo in collegamento, è molto migliore di noi. In questo momento ci sono sentenze, no? Avevamo ricordato appunto questo orangutan dal nome Sandra, in Argentina riconosciuta persona non umana e quindi scarcerata dallo zoo, e come lei tante altre cose. Oppure gli etologi che ci dicono che gli animali sono persone, perché questo termine persona deriva da la derivazione etimologica è maschera. Maschera significa carattere, no? Quello che caratterizza qualcuno, ecco, personalità appunto. Anche quindi... gli animali hanno una personalità e quindi anche loro possono essere persone. Ma pensa, parlando anche di moralità, visto che oggi abbiamo questa frase di Gandhi che introduciamo, sì, da ora in poi, sul fatto che il progresso morale di una nazione si può riconoscere, si può misurare dal modo in cui tratta gli animali. C'è un certo William Hornaday che nel suo libro The Minds and Manners of Wild Animals dice: è sicuramente possibile che esista un certo numero di uomini e donne intelligenti, non ha ancora conoscenza del fatto che gli animali selvatici hanno codici morali cui vivono conformemente, in media, meglio di quanto non facciano gli esseri umani. Assolutamente sì. Quindi ci sono tutta, certo, una serie di cose scoperte in natura, osservate, che ci fanno comprendere come moralità ed etica facciano parte del mondo animale. Per esempio, ti do due storie interessanti da questo punto di vista. Una, osservata in Africa: 11 elefanti salvano un gruppo di antilopi tenute in cattività. Cosa succede? Che la matriarca di questo gruppo di elefanti apre tutti i chiavistelli dei cancelli del recinto, permettendo agli antilopi di fuggire. Beh, fantastica. Oppure, per esempio, un ratto in gabbia si rifiuta di premere una leva per avere una ricompensa quando vede che a causa di ciò un altro ratto riceve una scossa elettrica. Ecco, poi venitemi a dire che sono stupidi. Ora capisci che questo è quello che la frase di questo Hornaday è molto interessante, perché dice: forse molti uomini e donne intelligenti non ancora sanno che gli animali si attengono ai loro codici morali meglio di quanto lo facciamo noi esseri umani, che le facciamo a volte è una questione più, se vuoi, vabbè, ma si può fare. E con questo fate le vostre considerazioni, ragazzi all'ascolto, uomini, donne, bambini, anziani, perché voglio dire, oramai non si tratta più di dire la cosa più che fa più scalpore, si tratta di essere a conoscenza e di sapere come siamo fatti noi, come è fatto ogni specie animale su questa terra, comprese le piante. Perché io ne volesse sapere di più, io ho letto queste due cose da un libro che si chiama Giustizia Selvaggia, con la prefazione di Danilo Mainardi, nostro etologo nazionale, edito da Dalai Editore, e Mark Beckhoff e Jessica Pierce. L'introduzione, pensa, si chiama La moralità in natura. Eccoci, come sarà, esiste anche che sarà il titolo, cioè, vuol dire che noi per la moralità non abbiamo bisogno di un dio. Ci sono delle non abbiamo bisogno nemmeno di leggi. No, abbiamo bisogno di leggi, perché c'è gente che lascia stare, che della moralità se ne frega. Anzi, dice: è legale e allora lo posso fare, non rompere, sì, non appunto, rompere in quel le palle. Senso, quindi dico, abbiamo bisogno di leggi, vabbè, che vietino alle persone che non hanno morale di compiere gesti. Che a parte questo, che stavo dicendo, dottoressa? Che mi fa. Vabbè, senti, nel frattempo che ti viene in mente. No, ci sono radici biologiche alla moralità, fanno parte del nostro DNA. E quindi meglio poi come sai a me piace la questione spirituale, però non è necessario invocare un Dio per poter essere brave persone. Allora, insomma, adesso invece io volevo leggerti e leggere a tutti quanti una notizia che a me è piaciuta tantissimo, veramente interessante. Questa notizia, fra l'altro, è stata pubblicata il 24 marzo del 2016, quindi fresca fresca. A Boston non verranno più venduti animali nei negozi. Ah. E sarà in vigore questa legge, te lo dico subito, nel 2017, entrerà in vigore nel 2017, perché l'obiettivo dell'iniziativa è appunto quello di contrastare il sorgere di negozi che vendono animali allevati per scopi commerciali e favorire le adozioni dei canili. Uh-huh. Perché fra le mille cose hanno scoperto che gli animali, fra l'altro anche quelli che noi vediamo nei negozi, che sembrano tutti belli, profumati e patinati, vengono invece, vivono situazioni abbastanza difficili, perché vengono ci sono pratiche addirittura, dicono, crudeli, però basta il fatto che arrivano nei negozi dopo viaggi estenuanti, provengono spesso da allevamenti dove i cani sono tenuti in condizioni igieniche e sanitarie inadeguate, che vengono assolutamente strappati troppo prematuramente alle madri. E tu ci hai detto tante volte, insegni che invece il periodo di 3 mesi che stanno con la mamma gli insegna tantissime cose al cucciolo, che poi essere poi un cane adulto equilibrato. C'è un grande bisogno, ma non un grande bisogno, cioè se non viene rispettata questa cosa, purtroppo crei dei problemi a quell'animale e a chi lo adotterà. Boston è la prima città degli Stati Uniti che vieterà la vendita di animali nei negozi, però sono infatti oltre 120 le città in cui il divieto è stato emanato, tra cui Chicago, Los Angeles e San Francisco. Cioè, la trovo una allora, cosa ho amici negozianti, no? Come puoi immaginare, il mio lavoro mi ha portato in questi anni a conoscere molti di loro. E, alcuni mi hanno chiesto anche: ma Angelo, sai, per me è vivere. Come faccio a non vendere animali? Ecco, scusami amore mio se ti interrompo. Sì. Questa cosa giustamente è specificata, perché il provvedimento che entrerà in vigore nel 2017 consentirà comunque ai negozianti di lavorare a stretto contatto con i rifugi e i canili, aiutando le associazioni preposte nelle adozioni. Si tratta di una scelta etica e lungimirante, e a guadagnare saranno sia gli animali che le città che i negozianti. Ecco, esatto. Allora, quello che volevo dire è che la tendenza poi, anche recentemente, tu guarda anche le grandi catene di negozi che scelgono di non vendere animali, ma di vendere solo gli articoli per animali. Allora, certo, i negozianti, i miei amici, hanno trovato utile mettere in contatto gli allevatori seri, piuttosto che chi appunto ha disponibilità di cani cresciuti bene, perché anche quella è una cosa importante, ne parleremo, cioè che cosa succede per esempio ad un feto quando è nella pancia della mamma, perché è già da lì che si forma il carattere del cane. Certo. Cioè, se la mamma è stressata, se l'allevatore non è un bravo allevatore e stressa la mamma, purtroppo i cuccioli nella sua pancia ne risentono. E così puoi immaginare la stessa cosa quando i cuccioli ormai saranno nati, in quei 2 mesi che sono necessari per la costruzione del loro carattere in associazione alla mamma. Quindi ecco perché la questione è delicata. Quindi molto meglio che loro si sono trovati molto bene a mettere in contatto gli allevatori con i proprietari di cani e a dare dei servizi, essere quasi dei consulenti. Certo. Piuttosto che per esempio contattare l'educatore cinofilo più vicino della zona, che si mettesse lì un pomeriggio a dare consigli sugli acquisti, perché ovviamente il parere di un educatore cinofilo è molto importante all'interno di un negozio dove tu ti trovi un sacco di roba. Qual è la cosa adatta a quel tipo di cane? Certo. A quel cane con quel tipo di problematica, con quel tipo di attitudine comportamentale, no? Queste sono le cose che hanno permesso ai miei amici negozianti di guadagnare di più e più eticamente. Anche perché, diciamoci la verità, è bellissimo vedere i cuccioli, vederne tanti, vederli dentro le teche. Il problema è che subiscono il primo trauma appena vengono staccati dalla mamma. Da lì vanno in un negozio, odori diversi, si trovano in mezzo a altri cani diversi, la gente che parla, che li tocca, che li accarezza. Poi da lì ogni tanto li piglia in braccio qualcuno, la sera alcuni dormono di notte nel buio nel negozio, altri vengono portati a casa dell'allevatore, che poi la mattina li porta lì finché non trovano una famiglia. Sì. Cioè, capisci che tu immagina che una prova volta un neonato, fagli fare una vita del genere e poi ditemi se ho fatto un'azione legale, non voglio raccontare troppe cose, però insomma quello che è successo è che sono passato davanti ad un negozio, ovviamente avevano spento le luci, avevano spento il riscaldamento, e io ho visto dei cuccioli molto piccoli avere molto freddo, che tremavano dal freddo, e quindi sono dovuto intervenire. Allora, state attenti, perché a volte anche il negoziante stesso non si rende conto di quello che succede di notte quando se ne va via. Certo. E poi ci sono quelli anche senza scrupoli, quelli che ti dicono: vabbè, ma prendono il cane per esempio da un commercio illegale proveniente dall'est, sai, queste cose che vediamo anche su Strisce, eccetera eccetera, e poi ti dicono: ah, ma ha un problema, per esempio è ammalato, non ti preoccupare, te lo cambio. E ovviamente la maggior parte delle persone ti dice: ma come mi cambi? Mi sono già affezionato. Cioè, l'ho preso che mi ero già affezionato, dopo una settimana che è con me, altro che. Infatti. E con queste ultime pillole, mi raccomando, consapevolezza, domandatevi, osservate le espressioni degli animali, perché vi dicono tanto. E se li vedete un'espressione triste, perché è oggettivamente triste. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Ci ritroviamo domenica prossima. Un abbraccio grande da Rosita Celentano e Angelo Vaire. Ciao.